Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci sono casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può diventare persino moralmente necessaria, quando appunto si tratta di sostrarre il coniuge più debole o i figli piccoli alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza. Questo ha detto ulteriormente il Papa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, rispetto al documento sul sinodo di ieri di cui abbiamo parlato. Si parlava di aperture nei confronti dei divorziati, delle coppie di fatto e anche dei gay, e diciamo che anche se era un documento che già veniva da una discussione dell'ottobre dell'anno scorso e che è di preparazione all'ottobre invece di fine 2015, già su questi temi aveva insomma delle sottolineature che costituiscono comunque un passo avanti. Il Papa oggi ha voluto ulteriormente sottolineare che effettivamente queste aperture ci sono, perché si diceva ieri, sì, la Chiesa comunque continua a fare il suo mestiere, però oggi forse per la prima volta il Papa ha riconosciuto che a volte le separazioni dei matrimoni, che era considerato indissolubile fino a quando lui ha usato queste parole, ci sono a volte, c'è la necessità di separarsi appunto per le violenze che uno dei coniugi più deboli, di solito la donna diciamo al 95%, subisce, oppure perché anche i figli vivono una condizione difficile, insomma, quindi ha in qualche modo giustificato. Questo diciamo è il nostro incipit di oggi, però gli argomenti sono moltissimi naturalmente, perché ci occuperemo anche della sentenza della Corte Costituzionale sul blocco dei contratti agli statali. Si attendeva molto questa decisione della Consulta, anche perché se avesse fatto come per le pensioni, avesse detto no, adesso lo Stato deve pagare gli adeguamenti, ci sarebbe stato un buco nei conti pubblici di 35 miliardi, invece non ci sarà, perché è vero che è stato illegittimo questo blocco, dice, ma non nel passato, lì evidentemente ce n'era bisogno per tenere i conti dello Stato in equilibrio. Ci occuperemo di questo con una sindacalista della CGIL, della pubblica amministrazione, e poi affronteremo anche a proposito di cose nuove, diciamo così, dette, anche di ciò che Renzi ha sottolineato a proposito dell'immigrazione, dell'emergenza immigrazione, che in certi casi il rimpatrio non è un tabù. Allora cercheremo di capire se la legge italiana effettivamente lo prevede, in cosa consista un rimpatrio per un immigrato e anche quale categoria di immigrati dovrebbero essere rimpatriati. Parleremo anche di Grecia, perché c'è l'Eurogruppo in corso, le Olimpiadi, insomma un sacco di temi, e come al solito avete due canali per intervenire, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms al 349-238-6666. Quello che vi chiedo, se volete, è effettivamente sull'emergenza immigrazione come si può trovare, come chiede Renzi stesso, quella che ha definito una giusta strada, una giusta via tra paura da un lato e buonismo e superficialità dall'altro sull'emergenza immigrazione. Siete d'accordo con eventuali rimpatri? Bene, mentre voi riflettete, allora vi racconto in sintesi la giornata. Il blocco degli stipendi degli statali è illegittimo, dice la Corte Costituzionale, ma non per il passato, evitato così il buco di bilancio. La crisi greca, la controproposta dei creditori smonta il piano di Atene, qualcuno rema contro, accusa il primo ministro Tsipras, in corso l'Eurogruppo decisivo. Immigrazione, Renzi riferisce alle Camere in vista del vertice europeo e dice i rimpatri non sono un tabù. Stati Uniti, Francia, scandalo intercettazioni, l'Eliseo indignato, dice spionaggio inaccettabile tra alleati. Politica italiana, Stefano Fassi annuncia l'addio al PD, l'obiettivo un nuovo soggetto politico con Civati. Alfa Romeo in una nuova veste torna la Giulia, la sportiva che sfida le tedesche. Calcio, Euro Under 21, questa sera l'ultima chiamata per gli azzurrini, la sfida è contro l'Inghilterra. E partiamo quindi dall'attesa sentenza della Consulta sul blocco degli stipendi della pubblica amministrazione. Ci sono buone notizie, vi dicevo, per i conti pubblici. Una decisione, quella della Consulta, che evita di fatto una nuova voragine nei conti pubblici. Per la Corte Costituzionale, infatti, il blocco dei contratti nella pubblica amministrazione è illegittimo, ma non per il passato. Se, come è accaduto per le pensioni, fosse stato adottato il criterio della retroattività, ci sarebbe stato un aggravio straordinario di 35 miliardi per l'ultimo quinquennio, con un effetto strutturale di circa 13 miliardi a partire dal 2016. Palazzo Chigi da oggi ha comunque un problema in più: trovare da una parte e da subito non meno di 5 miliardi ed affrontare una nuova stagione di confronto con i sindacati del pubblico impiego per il rinnovo degli accordi fermi da quasi 6 anni. Al Ministero del Tesoro starebbero già lavorando allora per trovare le coperture. I margini di manovra sono tuttavia molto esigui. Il cosiddetto tesoretto è stato utilizzato per il bonus pensioni e gli obiettivi di finanza pubblica annunciati dall'Italia a Bruxelles per il prossimo anno non sono al momento modificabili. Soddisfatti invece i sindacati della pubblica amministrazione che commentano: giustizia è fatta, è stata restituita ai lavoratori la dignità del proprio lavoro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi ne parleremo proprio con la segretaria generale della FIP CGIL. Intanto, altro argomento caldo è la Grecia. In corso l'Eurogruppo decisivo, anche se il clima nelle ultime ore non era molto positivo rispetto a qualche giorno fa, uno o due giorni fa, che si parlava di ottimismo, le borse erano anche salite. Ora il negoziato pare complicarsi, ma poi tra un po' sentiremo a che punto sta il vertice. Immigrazione: l'Ungheria fa un passo indietro rispetto alle chiusure e ai muri che aveva annunciato, mentre ci sono anticipazioni sul summit europeo. L'Ungheria fa dietro front, non sospenderà, come invece aveva annunciato ieri, gli accordi di Dublino 3 sui richiedenti asilo, che prevedono che chi fa domanda debba presentarla nel paese d'ingresso. Budapest, che ha visto entrare quest'anno nel suo paese circa 60.000 migranti e che appena la settimana scorsa ha iniziato a blindare il suo confine sud con una specie di muro, dopo le pressioni di Vienna e Bruxelles ha desistito. Una resa alla quale forse non sono estranee le anticipazioni del vertice europeo dei capi di Stato e di Governo che inizia domani. Secondo il Guardian, che ne anticipa le bozze, il documento dedicato all'immigrazione si concentra sull'identificazione veloce dei migranti, sul rimpatrio di quelli che non sono richiedenti asilo e anche su un sistema coercitivo con misure come il carcere fino a 18 mesi per i migranti per costringerli alla registrazione e alla fotosegnalazione. Andava in questa direzione, d'altra parte, il commissario europeo per le politiche migratorie Dimitris Avramopoulos in una lettera inviata all'inizio del mese ai ministri dell'interno, quando insisteva per i rimpatri, considerando l'attuale percentuale di rimpatri, circa il 40%, troppo bassa. Invece la proposta di ridistribuire i migranti fra tutti i paesi europei, sulla quale tanto aveva puntato l'Italia, pare rimasta al palo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo sulla politica tra riforma della scuola, che è il rush finale, e AD nel PD. Un componente esterno per valutare gli insegnanti, il rinvio della chiamata diretta da parte dei presidi, il concorsone per 60.000 docenti a dicembre. Queste le novità principali dell'ultima ora sulla scuola, contenute nel maxi emendamento sul quale il governo ha autorizzato la fiducia. Arrivano anche le 100.000 assunzioni da settembre, anche se le nuove regole scatteranno solo dal 2016. Il governo dunque accelera e punta a chiudere la partita scuola domani al Senato con il voto di fiducia e entro fine mese anche alla Camera con l'ultimo passaggio parlamentare. Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato. Un voto di fiducia necessario se si vuole mantenere l'appuntamento di settembre per l'assunzione dei precari, se si vuole farlo avendo aumentato l'offerta didattica. Protestano le opposizioni, che chiedevano invece di scorporare il piano delle assunzioni con un decreto d'arresto della riforma. Lega e SL minacciano di abbandonare l'aula durante il voto. Nessuna fiducia al governo, avvertono i 5 Stelle. Nuovo strappo nel PD, con Stefano Fassina che annuncia la sua uscita dal partito. Esco dal PD e la causa ultima è il voto di fiducia sul disegno di legge sulla scuola. Sarebbe stato necessario da parte del Presidente del Consiglio, segretario del partito, un'apertura, un dialogo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora le notizie dall'estero con i rapporti Stati Uniti-Francia, lo scandalo intercettazioni. L'Eliseo indignato dice lo spionaggio inaccettabile tra alleati. È calato un improvviso gelo sulle relazioni tra Francia e Stati Uniti dopo le rivelazioni sulle intercettazioni dell'NSA, l'Agenzia Nazionale di Sicurezza Americana, che per 6 anni, tra il 2006 e il 2012, ha spiato 3 presidenti francesi, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande nei primi giorni della sua presidenza. Hollande ha riunito un consiglio di difesa, al termine del quale ha definito inaccettabili le violazioni delle relazioni di fiducia reciproca che ci si aspetta tra paesi amici. Washington ha cercato di limitare i danni, spiegando che non sono in corso e mai lo saranno delle intercettazioni sulle comunicazioni di Hollande, senza però esprimersi sul passato. Parigi ha anche convocato l'ambasciatrice americana e ha annunciato che invierà negli Stati Uniti un alto funzionario dei propri servizi per verificare che queste vicende appartengano a un passato da archiviare. È alquanto probabile che nei prossimi giorni la polemica si placchi, ma certo queste continue rivelazioni sullo spionaggio americano nei confronti di leader di paesi alleati pesano e peseranno sulle relazioni transatlantiche. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E ora parliamo di un addio, tornando sulle notizie italiane. Il mondo dell'imprenditoria si è tolto la vita a Egidio Maschio, 73 anni. Un uomo di grande umanità e generosità imprenditoriale. Lo ricordano così colleghi e amici poco dopo aver appreso la notizia della sua morte, notizia che ha sconvolto non poco il mondo industriale veneto. Il suicidio di Egidio Maschio, fondatore e presidente di una delle aziende della meccanica agricola più grandi d'Italia, la Maschio Gaspardo di Padova, è come un fulmine a ciel sereno che fa ripiombare il pensiero alle inquietanti cifre tra i numeri dei suicidi imprenditoriali del 2013 e del 2014. L'industriale padovano, 73 anni, si è tolto la vita questa mattina poco dopo le 6:30 nella sua fabbrica, sparandosi un colpo di fucile al petto. Assieme al fratello Giorgio aveva contribuito a fondare 50 anni fa un gruppo che ha raggiunto i 2.000 dipendenti e ricavi per più di 300 milioni di euro e che pensava alla quotazione in borsa. Proprio negli ultimi anni la crescita dell'azienda e l'accelerazione su acquisizioni, partnership e aperture di nuovi stabilimenti in Italia e all'estero sembrano aver avuto come conseguenza un forte indebitamento con le banche. La richiesta di rientro da parte degli istituti di credito potrebbe essere all'origine del gesto estremo. Sono cose che vanno al di là della nostra comprensione, ha detto l'amico Mario Carraro, patron del gruppo Carraro di Campodarsego. Katie Mandurino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci occuperemo anche della nuova Giulia dell'Alfa Romeo che ritorna, vi ricordate, è stata una macchina mitica e vuole sfidare le tedesche della stessa categoria. Ci collegheremo dopo con chi l'ha vista oggi. E invece adesso il calcio, con chi lo sta guardando, lo sta seguendo, Dario Ricci, la sfida della nazionale Under 21 maschile. Eh sì, menù ricco questa sera, Roberta, tra calcio e basket. Partiamo proprio dal calcio perché gare decisive per la qualificazione alle semifinali degli europei Under 21. Siamo intorno alla mezz'ora, ad Olomouc l'Italia in vantaggio per 2-0 sull'Inghilterra, tutto in due minuti, prima il gol di Belotti, poi il raddoppio di Benassi, un 2-0 che però rischia di essere vanificato da quanto sta accadendo nell'altra gara del gruppo B, cioè lo 0-0 tra Portogallo e Svezia, un pareggio che se non dovesse cambiare qualificherebbe proprio lusitani e scandinavi. Per quanto riguarda il basket, gara 6 della finale scudetto, è iniziato da poco il secondo quarto a Sassari con i sardi avanti 27-22 in questa gara 6, lo ricordiamo, emiliani che però sono sul 3-2, in caso di vittoria si cucirebbero il tricolore sulla maglietta, ma partita ancora lunghissima. Grazie Dario Ricci, poi ci risentiamo per altre questioni sportive. Invece rimaniamo adesso sullo sport con la nostra Martina Angelini, commentatrice di Eurosport, esperta di calcio femminile. Ciao Martina. Ciao Roberta, buonasera. Continuiamo con le nostre puntate sul mondiale femminile, di calcio femminile che è in corso in Canada. Ci eravamo lasciate agli ottavi e adesso si parla di quarti di finale, no Martina? Sì, mancava ancora una squadra che doveva qualificarsi per gli ottavi, perché nella notte alle 4 di stanotte Stati Uniti Cina? No. Giappone Olanda, quasi dai, Giappone. C'erano degli asiatici. Sì. Esatto. E Giappone ha battuto 2-0 l'Olanda e quindi affronterà l'Australia nei quarti. Tra l'altro il Giappone, non mi ricordo Roberto se l'abbiamo detto in questi giorni, è campione del mondo in carica. Ah no, non l'avevamo detto. Perché in molti, veramente nessuno avrebbe pronosticato 4 anni fa la vittoria del Giappone al mondiale, era una squadra che tutti davano come una squadra normale. Quindi più forte degli Stati Uniti in realtà, le giapponesi sono. Tra l'altro 4 anni fa proprio le giapponesi batterono gli Stati Uniti ai rigori in finale, e nel 2011 fu tra l'altro l'anno del terribile terremoto che sconvolse il Giappone. Quindi Fukushima, ragazze, eccetera. Esatto, quindi le ragazze alla fine poi portarono in campo uno striscione insieme alla Coppa, salutando e ringraziando proprio le vittime, rendendo onore alle vittime. E quindi il Giappone affronterà l'Australia, anche quest'anno il Giappone in realtà non è andata fra le favorite, però possono, chissà che non possono ripetere quello che hanno fatto 4 anni fa. Quindi Stati Uniti-Cina, venerdì, insieme a Germania-Francia, tra l'altro USA e Germania sono le due favorite, e se dovessero vincere si affronterebbero in semifinale, quindi sarebbe una semifinale. Che partita! Che partitissima! Poi Giappone e Australia, e l'ultima è il Canada, appunto padrone di casa, che affronta l'Inghilterra tra venerdì e sabato i quattro quarti di finale. Allora i prossimi aggiornamenti, Martina Angelini. Grazie. Grazie. Resta sull'onda Martina, invece vedevo i vostri messaggi a proposito dei vari argomenti, qualcuno che ritorna sul Papa, altri sull'immigrazione. Dice Maurizio Volpe da Udine: separazione non è divorzio, essa è prevista dal codice di diritto canonico, nulla di nuovo dunque. Sì, ma il fatto di dire che è giustificata in certi casi, anzi è auspicabile, ecco, piccoli passi, non è che ci sia una rivoluzione, comunque insomma un nuovo modo di comunicare probabilmente. E poi Lidia, anche lei diceva: Roberto, il Papa non dice nulla di nuovo, la separazione c'è sempre stata e fa permanere l'obbligo di fedeltà, altro è il divorzio. Va bene, però vi dicevo appunto così, un nuovo modo di tornare su questi temi. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme. Stavo guardando invece un ascoltatore che diceva: Giuliano da Roma, un iperfemminista ignora la nomina di una donna a capo della comunità ebraica romana ed è la prima con 24 voti su 26. Il consiglio della comunità ebraica di Roma ha eletto appunto quel presidente Ruth Dureghello, che succede a Riccardo Pacifici. Ecco, questo è effettivamente una notizia anche qui di novità, grazie di averlo ricordato a Giuliano da Roma. Adesso invece io vi ricordo le notizie principali, perché sapete, ogni tanto qualcuno deve fare qualcosa, si allontana dalla radio, non sente le notizie, oppure accende con colpevole ritardo anziché essere puntuale alle 21 con Effetto Notte, ma insomma è perdonabile. Quindi vi ricordo le notizie e poi passiamo al primo argomento. Il blocco degli stipendi degli statali è legittimo, dice la Corte Costituzionale, ma non per il passato, ha evitato il buco di bilancio, tra poco ne parleremo. La crisi greca, la controproposta dei creditori smonta il piano di Atene, e Tsipras dice che qualcuno rema contro, insomma i negoziati si vanno un po' più complicati, comunque in corso l'Eurogruppo decisivo. Per l'immigrazione Renzi ha riferito oggi alle Camere in vista del vertice europeo che ci sarà domani e dopodomani e dice: i rimpatri non sono un tabù. Stati Uniti e Francia, rapporti tesi per lo scandalo intercettazioni, l'Elisabetta indignato dice: lo spionaggio è inaccettabile tra alleati, perché sono stati spiati gli ultimi tre presidenti francesi. Politica italiana, Stefano Fassina annuncia l'addio al PD con l'obiettivo di creare un nuovo soggetto politico insieme a Civati. Alfa Romeo è stata presentata la nuova Giulia, la sportiva che sfida le tedesche. Per il calcio abbiamo sentito Euro Under 21 questa sera con la sfida tra gli azzurrini, stiamo parlando di nazionale maschile Under 21, azzurrini contro Inghilterra. Si attendeva con ansia il giudizio della Corte Costituzionale sul blocco degli adeguamenti dei contratti della pubblica amministrazione, con ansia e timore, perché sapete che dopo che la stessa Corte aveva messo poco tempo fa fuori legge lo stop agli adeguamenti delle pensioni, sbloccando quindi gli adeguamenti rimasti fermi e mettendo in difficoltà il governo e i conti pubblici, bene, oggi è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale, della Consulta, su invece questo blocco dei contratti della pubblica amministrazione, e ha detto: è illegittimo il blocco degli stipendi della PA, però soltanto però non per il passato, e quindi in questo modo è stato evitato un ulteriore buco di bilancio che poteva ammontare per i conti pubblici italiani a circa 35 miliardi. La Corte Costituzionale quindi salva i conti dello Stato. Adesso si potranno fare però i nuovi contratti. Ne parliamo con Rossana Dettori. Buonasera. Buonasera a voi. Segretaria generale della FIP CGIL. E qual è il suo primo commento intanto su questa decisione? Ma il mio primo commento è che noi eravamo più o meno sicuri che potesse essere così, perché c'è una Costituzione, il blocco dei contratti del lavoro pubblico entrava proprio in conflitto con la Costituzione. Peccato che il governo non ha accettato il nostro consiglio, che era quello di aprire i tavoli ancora prima che glielo imponesse la Corte Costituzionale. Senta, ma intanto trovate positivo, ecco, diciamo che sicuramente i conti pubblici sarebbero stati ulteriormente in difficoltà, no? Si parlava di 35 miliardi, questo buco che ci sarebbe stato se fosse stata retroattiva questa sentenza, Dettori. Ma cioè, io non è che possa esultare del fatto che la Corte sancisca un principio fondamentale, che è appunto quello che non è più ripetibile il blocco dei contratti dei lavoratori pubblici. Però non posso nemmeno pensare che ai lavoratori pubblici non venga riconosciuto il diritto a avere una parte della, del salario che hanno perso. Penso che questa è una discussione che dovremmo affrontare al tavolo contrattuale, quindi ripeto, è necessario avviare immediatamente l'apertura del tavolo e lì negozieremo parti economiche e parti normative del nuovo contratto. Dettore, infatti adesso quello che deve partire è il rinnovo dei contratti, perché sì, da ora in poi quindi diventa illegittimo il blocco e si deve ricontrattare, ci devono essere gli adeguamenti eccetera, ma lei parlava anche di una piccola somma, diciamo, per chiudere questo contenzioso, o parlava semplicemente del futuro, dettore? No, io parlo del futuro, perché per quanto ci riguarda, perché poi noi abbiamo assunto da questo punto di vista una posizione molto forte e unitaria di CGIL e CISL e UIL sulla richiesta del tavolo. Siccome la sentenza uscirà fra due giorni, per noi fra due giorni scatta la data X del rinnovo contrattuale per il futuro. Dico che la Corte sembrerebbe, poi bisogna leggere la sentenza, perché adesso è tutta la lista del comitato sta leggere la sentenza. Dettori, forse Rossana Dettori, scusi, si dovrebbe o spostare o stare ferma a seconda di cosa sta facendo, perché la sento molto male, comincio a sentirla male. Mi sente lei? Pronto? Adesso sì. Non si muova di lì, per favore. Quindi diceva io sono in macchina, purtroppo avevo avvertito, scusate. Immagino, gli ospiti sono dappertutto. No, dicevo che per quanto ci riguarda, noi non diamo per questo il fatto che ci possa essere un ragionamento anche sulla parte dai lavoratori, che però questo è un tema che si affronta al tavolo negoziale, quindi se il governo si muove ad aprire il tavolo saremo in grado di trovare le soluzioni. Le faccio un'ultima domanda, una curiosità. Vedevo che oggi, ieri mi sembra, è stato aperto uno sportello CGIL a Bucarest in Romania, cioè la rappresentanza quindi travalica le frontiere, andate lì a rompere le uova nel paniere, a far pensare ai diritti dei lavoratori anche lì in Romania? Ah beh, certo, no, non vogliamo rompere le uova nel paniere, vogliamo provare a dire che in questo nuovo paese che si chiama Europa non può essere che la competitività fra nazioni è tutta giocata sulla pelle dei lavoratori, e siccome con le nazioni, tra l'altro appunto con la liberalizzazione eccetera, i diritti dei lavoratori in alcuni paesi sono proprio calpestati, noi vogliamo provare a garantire i diritti non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo. Quindi sarà uno sportello destinato a tutti i lavoratori rumeni interessati a venire da noi e ai nostri connazionali che lavorano invece o vanno a lavorare nell'est Europa. Come sapete, il problema è il contratto nazionale di lavoro, nel senso che loro vengono da noi e spesso vengono da noi, e quando arrivano da noi gli si applica il contratto che loro avevano lì, e quindi c'è un dumping contrattuale terribile, un disconoscimento delle condizioni di lavoro e dei diritti, e quando vanno a Bucarest i nostri noi vorremmo informarli di quali sono le condizioni, di quali sono i diritti, quindi un aiuto a chi viene e a chi va rispetto a applicazione contrattuale, diritti contrattuali, diritti normativi. La ringrazio Rossana Dettori, attenzione ai semafori, Sì, molto. Grazie. Buon viaggio. Grazie a voi. Arrivederci. Passiamo invece all'emergenza immigrazione, ormai è una frase, un'espressione che dura da tantissimo tempo, non soltanto perché continuano gli sbarchi, poi potete immaginare con l'estate, col bel tempo, insomma veramente a migliaia, ma anche perché c'è il vertice, domani ci sarà questo vertice europeo, domani e dopodomani, sull'immigrazione, e Renzi, il Presidente del Consiglio italiano, oggi ha affrontato il tema alle Camere, parlando prima al Senato, poi alla Camera, nel corso di un'informativa appunto su questo Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì, e finalmente ha detto la novità è che questa emergenza è diventata una priorità nell'agenda politica europea, anche se poi bisognerà vedere in che termini. Ha detto con due possibili strade, quello dello scontro, dice possiamo scegliere di stare in campagna elettorale permanente, non manca nessuno la possibilità di giocare a rinfacciarsi il passato, e quella invece dell'emergenza. Se è un'emergenza, ha detto Renzi, si cercano le soluzioni tutti insieme, è molto difficile riuscire a gestire la questione immigrazione trovando una giusta via tra paura da un lato e buonismo e superficialità dall'altro. Infatti vi invito anche a trovare, secondo voi, quale potrebbe essere la strada giusta tra il buonismo e la paura, al 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ne parliamo col professor Francesco Cherubini, che saluto. Buonasera, professore. Buonasera a tutti voi. Docente di diritto dell'Unione Europea e di organizzazione internazionale e di diritti umani. Renzi, in questa informativa che ha tenuto oggi alle Camere, ha detto delle cose, alcune che sta ripetendo da tempo, un'altra invece che ci fa riflettere sulla possibilità appunto dei rimpatri. Sentiamo la prima. Chi ha diritto all'accoglienza deve essere accolto. Noi chiediamo all'Europa di prendersi carico e cura di altre persone insieme a noi. Non è un problema numerico che da soli non ce la facciamo. L'Italia non è un paese dei balocchi in cui possiamo continuare a dare una rappresentazione all'estero e all'esterno di noi che è ridicola e grottesca. Noi siamo un grande paese che è nelle condizioni persino di potersi permettere di fare da solo. È l'Europa che non si può permettere di fare da solo. Diciamo, frase effetto, non so quanto l'Italia possa permettersi di fare da sola, non per niente stiamo chiedendo da tempo l'intervento dell'Europa, professor Cherubini. Sì, l'intervento dell'Europa è necessario perché negli ultimi anni, particolarmente negli ultimi due, i flussi, soprattutto da quella che viene chiamata Central Mediterranean Route, quindi la rotta del Mediterraneo centrale, sono aumentati. Sono aumentati moltissimo e se si prendono i dati delle altre rotte non si arriva, forse salvo per la rotta balcanica, ai numeri della rotta del Mediterraneo centrale. Professore, adesso invece dicevo la questione dei rimpatri che Renzi oggi ha detto abbastanza chiaramente, sentiamolo in questo passaggio. Perché è un principio giusto a nostro giudizio quello di poter vedere la redistribuzione delle persone che arrivano. Allo stesso modo, voglio dire, guardando in particolar modo la sinistra di quest'Aula, che noi non possiamo più, semmai l'abbiamo avuto, avere paura di concetti come il concetto di rimpatrio. Il concetto di rimpatrio, il rimpatrio non è più un tabù. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma anche messaggi al 349-238-6666, qualcuno dice come Ilaria, Eloisa, i rimpatri nel caso di persone che non hanno diritto allo status di rifugiato o di profugo non dovrebbe essere automatico? Professore, lo chiedo quindi a lei, c'era la Bossi-Fini che era stata molto contestata, no? Anni fa, che era la legge sugli immigrati, sull'immigrazione. Che cosa prevede il nostro paese? Che leggi prevede rispetto al rimpatrio e in che cosa consiste anche poi concretamente e anche a livello internazionale? Dunque, innanzitutto il rimpatrio ha un problema a monte, il problema a monte è quello della scrematura fra coloro i quali hanno diritto alla protezione internazionale e coloro i quali invece non hanno diritto alla protezione internazionale. Fatta questa scrematura, coloro i quali non hanno diritto alla protezione internazionale, sempre che non abbiano diritto al soggiorno per altre ragioni, ad esempio per accordi con stati terzi, possono essere rimpatriati. Questo è il vincolo più importante che impongono le norme internazionali. Poi, naturalmente, il rimpatrio ha un aspetto concreto che viene disciplinato dal nostro testo unico sull'immigrazione, questo naturalmente per quanto riguarda l'Italia, così come modificato dalla legge Bossi-Fini, e prevede delle procedure particolarmente complesse che privilegiano, almeno a mio modo di vedere, il rimpatrio volontario. Ora, il problema qual è? Il problema è che riesce a gestire il rimpatrio con numeri piuttosto esigui per due ragioni fondamentali. La prima è che non tutti i soggiornanti irregolari vengono rilevati. Quelli che vengono rilevati vengono rimpatriati per una percentuale ma non solo per l'Italia, per tutti i paesi europei, circa il 40%. Beh, quasi la metà, quindi. È quasi la metà. Questo perché il rimpatrio è molto costoso e poi ha un vincolo estremamente importante. Una volta che io ho scoperto che Tizio può essere rimpatriato perché non ha diritto alla protezione internazionale, allora poi naturalmente devo procedere, dopo aver esaurito una determinata procedura, a riportarlo nel paese di origine o in un altro paese dove ad esempio ha transitato. Per farlo c'è bisogno di un accordo con questo paese. Senza questo accordo, cioè senza il consenso del paese nel quale lo rimpatrio, il rimpatrio è impossibile, a meno che non si tratti, ma anche lì materialmente è comunque difficile, del paese di cittadinanza di Tizio, quindi di questa persona che va rimpatriata. Per cui è una procedura complessa che deve essere gestita fra vincoli di natura internazionale che comunque sono estremamente importanti e sono anche difficili da rispettare, e operazioni concrete di rimpatrio molto costose e che devono avere la sponda del paese verso il quale rimpatrio. Davvero complicato, quindi in realtà non è una cosa così semplice. Non è una cosa così semplice, però diciamo l'affermazione sulla base della quale il rimpatrio è un atto a certe condizioni legittime è un'affermazione che si può serenamente sottoscrivere sotto il profilo giuridico. Quindi è una cosa possibile ed è legittima dal punto di vista giuridico, però lei diceva è complessa e costosa, sì, anche perché per questi accordi se vengono rispettate determinate condizioni è direi perfettamente legittima. Il problema è rispettare quelle condizioni, non sempre è facile. Professore, non è facile rispondere neanche alla giusta via che diceva Renzi che bisogna trovare tra gli spauracchi, la paura e il buonismo dall'altra, no? Trovare una via di mezzo. Adesso bisognerà vedere al Consiglio europeo di domani e dopodomani se mai si arrivasse a qualche soluzione, perché già si è fatto il passo indietro sulle quote obbligatorie. Sì, il Consiglio europeo dovrebbe in qualche modo cercare di risolvere i punti di vista differenti di alcuni stati membri sulla cosiddetta relocation, che è una prima fase dell'attuazione dell'agenda dell'Unione Europea. È un meccanismo molto importante perché in buona sostanza distribuisce non i beneficiari della protezione internazionale, ma coloro i quali hanno fatto richiesta. Quindi sgravando il paese nel quale costoro o i paesi nei quali costoro hanno fatto ingresso, almeno nella maggior parte, in questo caso il meccanismo riguarda l'Italia e la Grecia, dall'onere di fare quella scrematura fra beneficiari della protezione e invece persone che non possono beneficiarne, che è assolutamente necessario per rispettare i vincoli internazionali. Grazie intanto della chiarezza, professor Cherubini. Grazie. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata. Ci prendiamo adesso un po' di ricreazione. Vedo anche Tonio sulla pagina Facebook di Effetto Notte che dice: ha fatto benissimo Renzi, in Italia basta solo accennare i rimpatri per essere considerato razzista dalla sinistra. In realtà avete sentito il professor Cherubini che ha detto da un punto di vista giuridico è legittimo, è un po' più complicato poi nella pratica. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete continuato a fare le vostre riflessioni, Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Dice Claudio dalla provincia di Torino, è una paura giustificata quella nei confronti dell'immigrazione, in percentuale sono molti i migranti che delinquono, dice quasi sempre una scusa che vengono qui per sfuggire alle guerre, vengono qui perché li manteniamo, ma insomma ci sono anche moltissimi che sfuggono, sappiamo, alle guerre, ce ne sono tanti, tanti territori di guerra e anche molta povertà, poi ci saranno anche quelli che per questioni economiche. E poi dice un altro ascoltatore, farli ospitare dalle ambasciate in Italia dei loro paesi non ci sarebbe spazio effettivamente, concretamente, se consideriamo appunto i migliaia di immigrati che sbarcano, soprattutto vi dicevo in questi tempi d'estate con il bel tempo. Samuele, la soluzione dell'immigrazione è applicare le leggi che già ci sono, è pena certa per i clandestini che delinquono, i carcerati costano, no problem, manodopera gratuita per rifare le strade e pulire le fogne. Al di là di funzioni specifiche, qualcuno già sta cominciando a sperimentare, diciamo, il fatto di chiedere volontariamente a alcuni immigrati di lavorare, di fare lavori socialmente utili. Vedevo un esempio, per esempio, a Prato, che mi sembra che funzioni. Intanto, però, vi ricordo le notizie principali e poi parleremo di Grecia. Il blocco di stipendi statali per la Corte Costituzionale è illegittimo, ma non per il passato. In questo modo è stato evitato un possibile buco di bilancio di 35 miliardi per i conti pubblici. La crisi greca, la controproposta dei creditori smonta il piano di Atene, tra poco lo affronteremo. Immigrazione, ne abbiamo appena parlato con Renzi, che ha riferito oggi alle Camere in vista del vertice europeo, dicendo che i rimpatri non sono un tabù, anche se abbiamo sentito che sono molto complessi. I rapporti tesi tra Stati Uniti e Francia per lo scandalo, un nuovo scandalo intercettazioni, avrebbero ovvero l'agenzia di 007 americana avrebbe indagato e avrebbe intercettato gli ultimi tre presidenti francesi. L'Eliseo indignato dice: lo spionaggio è inaccettabile tra alleati. Per la politica italiana l'addio di Stefano Fassina al PD, l'obiettivo è un nuovo soggetto politico con Civati, l'Alfa Romeo che presenta la rinata Giulia. E poi per il calcio la partita degli azzurrini under 21 per gli Euro tra la nazionale under 21 e l'Inghilterra. E siamo alla crisi greca, è davvero un leitmotiv ormai, è un ping pong, un giorno sembra che ci sia ottimismo, l'altro giorno è invece pessimismo. Tsipras era piuttosto irritato nelle ultime ore perché diceva, proprio lanciava un'accusa chiara, probabilmente contro il Fondo Monetario Internazionale, dicendo c'è chi non vuole l'accordo, ma anche Renzi ha detto qualcosa del genere. I greci e il governo greco devono sapere, e glielo diciamo con l'affetto di amici e con la vicinanza di chi sa le difficoltà che il popolo greco ha patito in questi anni, che esiste una fortissima pressione di parte delle opinioni pubbliche europee, in particolar modo di alcuni paesi, per utilizzare questa finestra che si apre come l'occasione per chiudere i conti con la Grecia e per eliminare una volta per tutte la questione della presenza della Grecia nella zona euro. Insomma, delle accuse gravi. C'è Livia Zancaner. Ciao Livia. Buonasera Roberta, ciao. Che ci parlerà dell'Eurogruppo che è in corso, poi c'era stata una piccola pausa, non so se dovevano mangiare, poi hanno ripreso. Che succede Livia? Si dice Eurogruppo decisivo, ma non so in che senso. Allora, diciamo che l'Eurogruppo, ricordiamo, la riunione dei ministri delle finanze dell'Unione Europea, allora è stato sospeso dopo due ore, quindi per questa sera è stato sospeso. Riprenderà domani alle 13 e domani alle 18, ricordiamo, ci sarà il Consiglio Europeo con i 28 capi di Stato e di Governo. Allora, uscendo dalla riunione, il presidente Dijsselbloem ha detto: sfortunatamente non abbiamo ancora raggiunto un accordo, siamo determinati a continuare il lavoro durante la notte se necessario, quindi l'accordo ancora non c'è. Nella notte lavoreranno quelli che vengono chiamati gli Sherpa, comunque i gruppi ristretti, e probabile nuovo incontro quindi fra il premier greco Tsipras e i leader di Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e BCE, quindi Lagarde, Juncker e Draghi, che si erano già incontrati nel pomeriggio. L'accordo quindi, abbiamo detto, non ci sarà. Probabilmente serve più tempo per trovare un compromesso, diciamo così, o una quadra sulla proposta di Atene, che due giorni fa invece a una prima lettura era stata valutata positivamente. Infatti, un giorno in un modo, un giorno in un altro. Tra l'altro, vedevo, sbirciavo un tuo documento dove c'era la proposta greca tutta scritta in nero e poi un sacco di righe rosse, che era invece la controproposta dei creditori. Sì, infatti due giorni fa mancava, era stata valutata positivamente, ma mancava l'esame tecnico degli uffici, appunto, di Unione Europea, BCE e Fondo Monetario. Allora, il Wall Street Journal ha pubblicato un documento di 5 pagine, una bozza, quella che citavi tu. Ci sono delle proposte, che sono le proposte greche, e segnate in rosso appunto le correzioni dei creditori, diciamo che sono abbastanza. Allora, in sostanza Atene propone nuove imposte sulle aziende e cittadini con i redditi più alti, aumenti selettivi dell'IVA, rialzi ai contributi pensionistici, cioè rialzi dei contributi pensionistici ma non tagli. I creditori invece vorrebbero tagli alle pensioni, aumenti maggiori sull'IVA, nessuna tassa ulteriore sulle aziende, perché secondo loro porterebbe ancora più recessione nel paese. Lo dicevi tu all'inizio, proprio Tsipras ha accusato i creditori, soprattutto il Fondo Monetario, di non voler accettare le soluzioni del suo governo. Allora, diciamo che adesso il tempo stringe davvero. Domani ci sarà il Consiglio Europeo, poi c'è il weekend, martedì è il 30 giugno, quindi martedì Atene deve rimborsare 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario, e solo una volta chiuso l'accordo arriveranno, quindi verranno sbloccati 7,2 miliardi di aiuti. Quindi diciamo che tra stanotte e domani dovrebbero bene o male avere un'idea. Speriamo, grazie Livia Zancaner. Vedremo quale sarà la prossima tappa. Intanto noi come tappa abbiamo gli aggiornamenti per chi viaggia e poi ritorniamo con i vostri messaggi al 349-238-6666, la pagina Facebook di Effettonotte per le vostre opinioni giorno e notte, con gli altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo velocemente le notizie. Abbiamo appena parlato di crisi greca e abbiamo visto che l'Eurogruppo è stato sospeso, doveva essere decisivo, ma ancora non è stata presa nessuna decisione, anche se insomma i tempi stringono. E poi, a proposito invece della notizia italiana del blocco degli stipendi degli statali, è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che è stato illegittimo in questi ultimi 6 anni il blocco, ma partiamo da adesso, nel senso che non è retroattiva questa sentenza e così ha evitato un buco nei conti pubblici. Immigrazione, Renzi ha riferito oggi alle Camere in vista del vertice europeo, quello di domani e dopodomani, che dovrebbe decidere un meccanismo di redistribuzione dei rifugiati. Ha detto che non è un tabù, non sono un tabù i rimpatri. E poi i rapporti tesi tra Stati Uniti e Francia per un altro scandalo intercettazioni da parte degli Stati Uniti sui presidenti francesi. Per la politica italiana, l'addio di Stefano Fassina al Partito Democratico e adesso con Civati creerà un nuovo soggetto politico. L'Alfa Romeo che ha presentato la Giulia, e per il calcio ancora in corso la partita Under 21 per gli Euro tra nazionale italiana e Inghilterra. Europa 24 notte. Parliamo di Wrocław, difficile la pronuncia di questa città, con una serie di iniziative culturali, concerti, performance, spettacoli teatrali. La città appunto di Wrocław, Breslavia sarebbe in italiano, ha dato il via a festeggiamenti per la nomina capitale europea della cultura del 2016, titolo condiviso con la spagnola San Sebastian. Dal 2005 infatti sono due le città elette, una per i paesi più antichi dell'Unione e l'altra per i nuovi stati entrati a far parte dell'Unione Europea. Ma come mai questo titolo è stato attribuito a Wrocław? Marcello Murgia, autore del blog Un italiano a Wrocław e curatore della parte italiana del sito del comune della città, ci racconta appunto questa città al microfono di Alessandra Schepisi. Secondo me perché la città è storicamente comunque un crocevia di culture, di popoli che si sono storicamente incontrati in questa città, in questo territorio. Poi soprattutto l'anno prossimo, nel 2016, quando l'anno che vedrà Wrocław capitale europea della cultura, in realtà vedremo un'espressione culturale, uno sforzo produttivo culturale elevato al quadrato, perché già da anni la città di Wrocław esprime anche le sue aspirazioni culturali in modo assolutamente eloquente. Ad esempio, proprio in queste settimane Wrocław, in qualità di futura capitale europea della cultura, si sta promuovendo alla Biennale d'Arte di Venezia con i temi della perdita della casa, dello sradicamento, temi che fanno parte della storia un po' burrascosa di Wrocław, soprattutto durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando centinaia di migliaia di persone sono state soggette a dei trasferimenti coatti. E quindi la città nel 1945 non solo ha cambiato appartenenza nazionale, diventando da città tedesca, diventando città polacca, ma ha cambiato anche in modo profondo il proprio DNA, perché infatti è stata abitata da persone che venivano da altri territori. All'inizio di quest'anno, presso il Museo di Architettura di Wrocław, che è anche l'unico museo di architettura in Polonia, c'è stata la mostra del maestro, del guru del design italiano Alessandro Mendini, no? All'inizio di quest'anno. Poi ci sono numerosi accenti italiani, no? Questa infatti è una cosa che mi piacerebbe sottolineare, note italiane che possiamo ad esempio individuare con il cosiddetto Narodowe Forum Muzyki, cioè il forum della musica, l'auditorium della musica. La cosa interessante è che il direttore di Bratislavia Cantans, che è uno dei festival più importanti in città, è italiano, no? Ed è Giovanni Antonini. La cosa importante è che questi sforzi culturali vengono anche accompagnati da una performance di tutto rispetto a livello economico, attirando investimenti con un grande impatto occupazionale. Ed è proprio in questo contesto, ad esempio, che va inserita e va capita, va letta l'attenzione che nel 2013 i giornalisti, i media italiani hanno rivolto a Wrocław, interessati, sorpresi che ci fosse una così nutrita, folta comunità italiana che abita infatti in questa città. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus.